Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Filippo Carzaniga, la FIMER dal sogno alla tecnologia delle energie rinnovabili, di Anna Marino. Il mio sogno era comunque portare avanti il progetto che era di mio nonno, anche perché ho avuto la sfortuna di non conoscerlo, nel senso che mio nonno è morto molto giovane, a 43 anni. E quindi ho sempre avuto il suo mito, e uno dei miei sogni sin da bambino era quello di poter portare avanti il suo progetto industriale, il suo progetto aziendale. Vuole continuare il sogno di suo nonno, Filippo Carzaniga, direttore generale e terza generazione della famiglia che guida l'azienda FIMER, fondata da Arturo Sottocorno nel 1942. Un sogno che negli anni è cresciuto fino a diventare una grande azienda del settore tecnologia inverter per il fotovoltaico, che realizza il 94% del fatturato all'estero, ha 184 dipendenti, realizza 45 milioni di fatturato con FIMER Industrial e 73 milioni con FIMER Group. Ma rimane Made in Italy, il 100% di FIMER Group, azienda del territorio di Monza e Brianza, nota per le sue saldatrici e i condizionatori, ora protagonista della Green Economy. Fin dal primo giorno, la ricetta per l'azienda del fondatore è stata quella di guardare avanti, sempre, alla prossima innovazione e al prossimo orizzonte internazionale, come racconta il nipote Filippo Carzaniga. Mio nonno lavorava per un'azienda qui di Milano, tra l'altro, che oggi penso non esista più, che era un'azienda che produceva saldatrici. Era una persona molto innovativa all'epoca e non era molto in linea con i processi produttivi e le scelte tecniche che venivano fatte in questa azienda. Allora decise all'età di 18 anni, perché nel 1942, tra l'altro in tempo di guerra, aveva 18 anni, di mettersi in proprio. Tutto nasce, come spesso accade, in un garage, il garage di casa sua, e inizia a progettare e produrre le prime macchine saldatrici, con un concetto anche produttivo completamente diverso. Inizia poi lo sviluppo della parte di costruzione del primo stabilimento, ipotecando la casa di suo padre, quindi con un certo coraggio che poi è uno degli elementi fondamentali che hanno accompagnato tutta la storia dell'azienda, e da lì inizia il processo evolutivo dell'azienda. Quindi nasce con un primo stabilimento, poi l'azienda si è espansa e ha sempre mantenuto fede al proprio lato innovativo, nel senso che all'interno di FIMER in tutti gli anni, sia nell'evoluzione in saldatura e poi nelle altre divisioni aziendali, abbiamo sempre mantenuto un forte aspetto innovativo. Mi ricordo già nel 1954 esportavamo i primi prodotti in Europa, quindi già una vocazione all'internazionalizzazione all'epoca. Negli anni 40 e 50 l'azienda ha seguito la storia italiana, evolvendosi di pari passo sul fronte della produzione. Uno dei primissimi progetti anche di vendita che aveva mio nonno era quello di fornire le truppe in ritirata in tempo di guerra di saldatrici che dovevano riparare i primi mezzi aziendali. Il tutto poi è proseguito anche appena dopo la guerra, quando è iniziato il boom economico, dove l'azienda si è specializzata anche per la fornitura in ambito automotive di saldatrici speciali per le aziende che producevano automobili e stavano crescendo in maniera considerevole in quegli anni. L'internazionalizzazione coincide con la svolta imprenditoriale. Farsi conoscere all'estero è stato l'elemento chiave per accreditarsi anche in Italia, come racconta Filippo Carzaniga. La svolta imprenditoriale penso sia avvenuta di fatto a inizio anni 80, nel senso che a inizio anni 80 si passava in un periodo abbastanza complicato per l'azienda, perché era avvenuta 10 anni prima la scomparsa di mio nonno nel 69. L'azienda ha passato un decennio dove è stata gestita poi da mia madre, di fatto, che era molto giovane all'epoca, 19 anni, e primi anni 80 è entrato in azienda mio padre, che faceva un altro mestiere all'epoca, era un ingegnere civile, e da lì si è accelerato il processo di internazionalizzazione. Quindi l'azienda è andata sempre molto di più all'estero. Mi ricordo tantissimi viaggi che abbiamo fatto in Nord Africa, in Algeria, e abbiamo spinto in maniera considerevole sul processo di internazionalizzazione, quindi andando molto all'estero e trascurando un po' di più il mercato italiano. Questo ha permesso all'azienda di potersi espandere a livello internazionale in determinati mercati, e poi la svolta veramente considerevole è stata con l'apertura di nuove business unit. Il passaggio generazionale anche in un'azienda un'azienda ad alta tecnologia è caratterizzato da valori umani che tramandano messaggi fondamentali. A ogni generazione corrisponde una fase. L'ingresso della seconda generazione in Fimer ha visto Susanna Sottocorno entrare in Fimer S.P.A. nel 1969, a soli 19 anni, con il ruolo di responsabile amministrativo del gruppo. Ha seguito sin dagli inizi tutto lo sviluppo aziendale in qualità di successore al fondatore del gruppo, Arturo Sottocorno. Nel 1982 è stata nominata amministratore unico, carica che ha mantenuto fino a gennaio 2012, dove è stata nominata attuale amministratore delegato del gruppo. Un passaggio generazionale brusco, come racconta suo figlio. Un po' violento. Onestamente, da questo punto di vista non le invidio, perché vedo quanto è complicato oggi gestire un passaggio generazionale, tra virgolette, accompagnato tra mio padre e me in questo caso, e quanto potesse essere violento invece un passaggio generazionale molto brusco, perché ci si trova dalla sera alla mattina senza una guida aziendale e bisogna comunque gestire questo processo di cambiamento, perché di fatto un passaggio generazionale è un cambiamento per la gestione dell'azienda, ma è un cambiamento per tutti i collaboratori. È stato molto complicato, nel senso che mia madre aveva una formazione magistrale, si era appena iscritta all'università e quindi ha dovuto abbandonare tutto e dedicarsi all'azienda, capendo in maniera molto più veloce rispetto a qualsiasi altra persona come si poteva gestire un'azienda che aveva poi una forte personalità precedentemente, che era mio nonno. Quindi è stato molto complicato. Bilanciamento vita e lavoro. Così è stato l'equilibrio tra azienda e famiglia da Filippo Carzaniga e da sua madre. C'è da dire che mia madre si è sempre molto dedicata all'azienda e ha sempre lavorato tantissimo in azienda. Io penso che l'impegno che ha messo nella gestione aziendale, soprattutto all'inizio, è stato uno degli elementi fondamentali per poter creare quel senso di fiducia anche nei confronti degli altri collaboratori. Io ho avuto la fortuna di avere due zii che mi hanno seguito molto quando ero piccolino e quindi hanno potuto permettere a mia madre di dedicarsi maggiormente al lavoro. Sono aspetti molto delicati. Come in tutte le cose ci vuole equilibrio. Lo vedo anche nel mio caso, adesso con mia moglie, con la mia famiglia. Io dedico molto tempo al lavoro, però quei momenti che dedico alla famiglia cerco di dedicarli al 100%, perché ci deve essere comunque un'alternanza di questi due estremi, che sono il forte impegno lavorativo, ma giustamente ci vuole anche un impegno familiare di un certo livello. Punto fondamentale nelle aziende sono le risorse umane. E quindi il welfare allargato a un'azienda che è anche una multinazionale, sottolinea Filippo Carzaniga. Ultimamente abbiamo inserito, tra virgolette, una figura di HR un pochino diversa rispetto allo standard italiano di figura di risorse umane, nel senso che abbiamo inserito una figura di sviluppo del potenziale. Il nostro HR manager oggi lavora molto di più sullo sviluppo del potenziale di ogni singolo collaboratore, in modo tale che ognuno possa dare il meglio, quindi non è una figura, tra virgolette, burocratica, ma una figura proprio di sviluppo delle proprie risorse. A livello di welfare in azienda cerchiamo di lasciare un orario anche di lavoro abbastanza flessibile, soprattutto per le risorse manageriali. Noi pensiamo che quello che deve guidare sia il risultato, quindi ogni persona possa essere autonoma e possa gestirsi il tempo in maniera autonoma. L'estero ha un peso specifico preponderante per Fimer. Non solo sta realizzando la maggior parte degli impianti fotovoltaici in America Latina, incluso quello in Messico da 750 megawatt, ma facendo parte di una rete tra piccole e grandi imprese, sta ampliando sempre di più il suo portafoglio estero. Crea un prodotto che non è un prodotto accattivante, nel senso che produciamo saldatrici, climatizzatori e stazioni di conversione energia per impianti rinnovabili, quindi non è un prodotto consumer. Abbiamo avuto un forte processo di internazionalizzazione, soprattutto negli ultimi anni, dovuto anche all'espansione repentina nell'ambito energie rinnovabili. Fimer oggi è la prima azienda produttrice di inverter e stazioni di conversione in Italia e abbiamo il primo market share in Latin America, ad esempio, che è il nostro primo mercato focus oggi. Questo è stato possibile sì grazie agli sforzi aziendali, perché comunque è una tendenza che abbiamo sempre avuto, quella di internazionalizzare, ma anche grazie a grossissimi gruppi italiani, leader assoluti ed eccellenze nel campo dell'energia, faccio un nome nel Green Power, che hanno come politica il creare un processo di internazionalizzazione anche per le aziende più piccole. per noi un driver importantissimo perché ci ha permesso di allargare ulteriormente il nostro spettro d'azione. È uno dei primi casi veri dove il sistema Italia ha fatto squadra. Cambiamento climatico e ambiente sono temi cari a FIMER, azienda che opera anche nella green economy. Sta preparando infatti la proposta per un nuovo piano strategico dell'energia, da presentare al governo italiano, che sposti l'attuale produzione, fortemente sbilanciata sul carbon fossile, verso le energie rinnovabili. Un realistico piano 2020-2030, avente come target la copertura del 60% del fabbisogno energetico italiano con rinnovabili. È un po' nel nostro lavoro, nel senso che facciamo prodotti per energie rinnovabili. Tenga presente che quando abbiamo costruito il nuovo sito produttivo abbiamo investito affinché fosse completamente impatto zero. Penso che sia uno dei pochissimi casi di queste dimensioni in Italia e in Lombardia. Il sostegno di politiche ambientali riteniamo sia fondamentale soprattutto per dare anche un futuro. Oggi a livello di inquinamento il territorio è massacrato, ma il territorio parlo di tutta l'Italia e di tutta l'Europa. Filippo Carzaniga vuole però sottolineare come tutto il sistema industriale locale e nazionale si sia evoluto e ormai parli un linguaggio diverso, a partire dal luogo comune dell'imprenditore brianzolo. Il brianzolo si è evoluto, oggi il brianzolo non è più il signore con la valigetta che gira il mondo cercando di vendere la propria azienda e i propri prodotti. Ormai il brianzolo è un brianzolo più tecnologico, molto più attento agli aspetti ambientali, molto più attento al rapporto con le persone e molto più attento anche al rapporto con i propri collaboratori e all'ambiente industriale. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.